Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, primo appuntamento con il meglio di essere avere in avvicinamento alla pausa estiva. Tempo di viaggi e spostamenti, torniamo a parlare di travel retail e di vizi e manie da viaggiatori. Sapete per esempio che è tutta italiana e francese l'abitudine di controllare continuamente i documenti al check-in? Festeggiamo poi i 60 anni di uno dei giochi più popolari al mondo, un prodotto diventato disciplina sportiva e fenomeno di costume. Concludiamo con la matematica come alleata per le scelte di vita e di consumo, antidoto contro il gioco d'azzardo. Volo 1520 per Zurigo. Imbarco immediato, uscita A33. Signor Navorsky, la prego di seguirmi. Mentre lei era in volo, il suo paese ha subito un colpo di stato. La Repubblica di Cracovia ha un nuovo governo. Cracovia! Non credo che abbia ferrato. No. Dove compro le scarpe Nike? Non ho la sensazione di viverci all'aeroporto. Ve lo ricordate, Tom Hanks, ostaggio dell'aeroporto in The Terminal, avrebbe avuto sicuramente vita più facile negli aeroporti d'oggi, che soddisfano ormai ogni nostra esigenza, prima fra tutte lo shopping. Il travel retail negli aeroporti genera 60 miliardi di dollari all'anno, per alcuni brand arriva a coprire, pensate, il 30% del fatturato, una crescita che interessa soprattutto i brand del lusso e si concentra sulla generazione dei millennials, i giovani tra i 21 e i 35 anni, la generazione che viaggia per lavoro o per piacere più di tutte quelle precedenti. Secondo una ricerca Nielsen, un viaggiatore italiano su 4 è disposto a spendere fino a 2.500 euro all'anno negli aeroporti. Cristina Papini. Quello che abbiamo riscontrato è che la generazione di millennials sulla quale ci siamo concentrati è una generazione di rottura rispetto alle precedenti, che ha delle abitudini di vita e di consumo diverse dal passato e che tendono a premiare questo canale di vendita in termini di acquisto. Questo target, che proprio per predisposizione ha una mobilità molto elevata, pensiamo che rappresentano in termini di consumatori, quindi di teste, circa la metà degli acquirenti. È interessante capire le caratteristiche di questo target, soprattutto rispetto al lusso. Sappiamo che negli aeroporti sono presenti marche premium e marche luxury, così come per quanto riguarda i prodotti di largo consumo. Gli italiani risultano, rispetto ai colleghi internazionali, più propensi a spendere, con una spesa più elevata. Infatti quasi un millennial su 4 è disposto a spendere oltre 2.500 euro. Un italiano su 4 che va a confrontarsi con il solo 4% dei viaggiatori non italiani. I numeri che abbiamo raccontato, che sono i numeri dell'indotto dei viaggi aerei, ci fanno capire, ci spiegano meglio perché addirittura Ryanair sia arrivata ad ipotizzare in un futuro una quota di voli gratis in determinate situazioni, proprio perché l'indotto negli aeroporti, quello che si spende nei servizi, nei negozi, sta diventando molto significativo. Sì, ed è altrettanto interessante studiare il nostro target in focus, che risparmia nella parte di viaggio in sé, si affida alle compagnie low cost e alle accommodation peer-to-peer come può essere Airbnb. Questo libera della risorse appunto economiche per poterle destinare ad altro, come gli acquisti durante il proprio journey, proprio perché è interessante avere questa esperienza anche fuori dai propri confini domestici, e quindi viaggiare è un modo di conoscere anche attraverso i propri acquisti. Che c'è? Vieni con me. Mai stare dietro agli anziani, hanno le ossa piene di metallo e sembrano non apprezzare quanto poco tempo gli sia rimasto. Eccoli, asiatici, sono essenziali, bagaglio leggero e hanno la fissazione per i mocassini. Li adoro. Questo è razzismo. Sono come mia madre, mi affido agli stereotipi, si fa prima. come voli e ti dirò chi sei. Non aveva tutti i torti George Clooney in Tra le nuvole. Lo dimostra la ricerca condotta su oltre 9.000 passeggeri in 19 paesi nel mondo da Sita, la società internazionale che offre soluzioni tecnologiche per aeroporti, compagnie aeree e agenzie governative. Una ricerca che da 11 edizioni indaga le abitudini dei passeggeri e traccia il profilo dei viaggiatori tipo nel mondo. Maurizio Taffone. L'indagine che ormai portiamo avanti da circa 11 edizioni mappa quattro tipologie di viaggiatori nel trasporto aereo. In particolare diciamo che i viaggiatori europei oggi come oggi rispondono per esempio a una tipologia che noi chiamiamo gli attenti pianificatori, cioè sono quelli che hanno necessità, se vogliamo, di pianificare con molto anticipo le varie operazioni relative al volo, quindi stampano i documenti, li controllano, tutto affinché il viaggio proceda senza intoppi. Ci sono ulteriori altre tipologie, il viaggiatore cosiddetto iperconnesso, tipicamente ecco il viaggiatore cinese, molto propenso a infastidirsi per esempio se il viaggio non funziona nella maniera migliore e utilizza moltissimo dispositivi mobili per esempio, così come per esempio fa in questo momento il 70% dei viaggiatori. Poi per esempio i russi noi li definiamo ad esempio avventurieri, sono impazienti all'idea di provare nuovi servizi, utilizzano per esempio viaggi di tipo low cost anche per destinazioni magari non usuali. I viaggiatori più apprensivi sono invece i brasiliani, circa il 92% dei viaggiatori brasiliani vuole avere informazioni sul proprio bagaglio direttamente sul dispositivo mobile. Ecco, che cosa si aspettano oggi i passeggeri dalla tecnologia? Dove si concentrano le loro richieste? Sicuramente si concentrano su due aspetti principali: tutta la fase di preparazione del viaggio, quindi quello che normalmente viene chiamato bookings. Diciamo che oggi dai nostri dati non più dell'8% dei viaggiatori in questo momento si sta affidando a un'agenzia per acquistare un viaggio, quindi la stragrande maggioranza, il 92% dei passeggeri in questo momento utilizza tecnologie di tipo self-service. Ecco, la chiave fondamentale è appunto il self-service, il servizio che uno si autopropone, stesso per quanto riguarda ad esempio il check-in, quindi inizio del viaggio, ma anche per esempio il trattamento del bagaglio. Moltissimi aeroporti oggi si sono dotati di tecnologie di tipo self-bag drop, quindi la possibilità di automatizzare il processo di rilascio del bagaglio. E tra l'altro la vostra ricerca dimostra che il passeggero che prova questi servizi di automatizzazione all'interno dell'aeroporto poi non torna indietro. Non c'è assolutamente una volontà del passeggero, diciamo, di utilizzare e di ritornare alle tecnologie tradizionali, quindi proprio la gestione dell'esperienza del viaggio da parte del passeggero grazie alla tecnologia e a questo concetto, diciamo, di self-service è stato completamente stravolto in questo momento. Questo chiaramente dà grossi vantaggi anche da un punto di vista della gestione del flusso dei passeggeri. Pensiamo agli aeroporti nelle giornate di picco, per esempio estive, per quanto riguarda i passeggeri europei. Oltre a quelle che abbiamo già citato, come si stanno evolvendo le tecnologie negli aeroporti? Ad esempio, il controllo biometrico è già realtà? Sì, il controllo biometrico è già realtà, diciamo forse spinto anche da esigenze legate alla sicurezza. Sappiamo sfortunatamente determinati accadimenti hanno richiesto di implementare maggiori controlli all'interno degli aeroporti, sugli aerei, e questo chiaramente impatta molto, diciamo, l'esperienza del passeggero. Ad oggi le tecnologie biometriche sono una realtà, vengono utilizzate, abbiamo già per esempio esempi di soluzioni che automatizzano il controllo dei passaporti alle frontiere. Un controllo passaporti normalmente richiede circa un minuto da parte dell'addetto. Con queste tecnologie biometriche siamo scesi a 20 secondi. Questo significa fondamentalmente trattare tre passeggeri in un minuto invece che uno, e questo chiaramente ha un grosso impatto. Pensiamo anche semplicemente alla riduzione delle code. Ci sono altre tecnologie sempre basate sul biometrico che permettono addirittura di automatizzare il transito del passeggero all'interno dell'intera area aeroportuale, quindi dall'inizio del viaggio fino alla, diciamo, fino al suo termine, addirittura in qualche caso fino al parcheggio. È possibile addirittura riconoscere o avere informazioni su dove si è lasciata la macchina utilizzando sempre tecnologie biometriche in arrivo. E questa, se vogliamo, è un po', diciamo, una novità. Amato dagli adulti e dai bambini, è uno dei simboli degli anni Ottanta in Italia, un gioco ancora molto popolare sulle spiagge. Avete qualche minuto per indovinare di cosa si tratta? Restate con noi, ne parliamo subito dopo la pausa. Essere e avere. Ma pare che sia giunta un'alternativa al calcio. Si chiama frisbee o vola vola. Il gioco sta conquistando l'Europa. Arriva come sempre dall'America, dove lo si pratica da oltre 20 anni. La sua origine è molto modesta. Lo hanno inventato alcuni studenti che, per ingannare il tempo fra una lezione e l'altra, cominciarono nel campus della Harvard University a lanciarsi i coperchi di metallo delle scatole di biscotti, da cui appunto il gioco prende il nome. Adesso il disco è in plastica e può volare a una velocità di 110 miglia all'ora. L'Italia ha già il suo campione, si chiama Valentino De Chiara. È lui che al Parco di Milano ha dato una dimostrazione di questo gioco che mischia il baseball al calcio, la pallacanestro al golf. Valentino De Chiara cercava proseliti e li ha trovati, anche perché la crisi costringe alla rinuncia dei weekend, limita le occasioni di ferie. Tutto viene buono per dare un senso al tempo libero, alle vacanze in città. Anche un disco di plastica che viaggia più veloce dell'inflazione. Erano gli anni 70 e in Italia sbarcava il frisbee, un oggetto già di culto negli Stati Uniti, inventato negli anni 50 da un veterano di guerra. Giocattolo e attrezzo sportivo, 200 milioni di pezzi venduti nel mondo, il frisbee è diventato il simbolo di un'epoca. A importarlo in Italia, lo abbiamo sentito nella clip d'epoca, Valentino De Chiara, primo campione italiano, fondatore e presidente dell'Associazione Italiana del Frisbee. In occasione di un viaggio che io feci in California nel 1972, ho visto i ragazzi che giocavano dentro al campus dell'università a Berkeley. Ne presi uno, mi innamorai di questo attrezzo che volava così bene per Milano, poi feci delle tournée in tutta Italia, feci conoscere a tutti, poi tutta la storia si sa da allora. Che cosa ricorda Valentino di quegli anni in cui poi lei è diventato campione? Sì, poi man mano in verità campione ero, però avevo poco di campione, dovevo andare in America per sfidare, ma lì campionati italiani poi abbiamo fatto, più forte ero io. Poi adesso però abbiamo dei ragazzi campioni del mondo, addirittura abbiamo portato via gli americani da 30 anni che vincevano sempre loro il campionato mondiale, la squadra italiana l'ha portato via il titolo. Adesso c'è il Centro Italiano Sport Ecologici, dove ci sono tutti gli attrezzi volanti e vengono le scuole, vengono i ragazzi. Che cos'è il frisbee per lei, Valentino? È stato un compagno di vita da 45 anni. Poi sono molto bravo a fare i giochi unico, il lancio boomerang. Io avevo 3 frisbee in mano, lanciavo in alto quando più potevo, poi lanciavo il secondo e il terzo, e poi li prendevo tutti e 3 contemporaneamente, una alla volta. Lì ho creato la pista, tutte le scuole vengono con i ragazzi. La pista sull'erba di 800 metri, il playfield Barona, che si gioca in mezzo ai campi. Quando mi sveglio al mattino, faccio tutte le cose alla mia toilette, poi mangio, eccetera. E dove vado? Vado sempre lì, dove andiamo alla palestra, e abbiamo registrato tutte le cose eccezionali fatte, da fare tutte le gare di distanza, di precisione, stile libero, i lanci di precisione del frisbee. Un cerchio che si mette all'altezza di un metro e quella 160 di diametro, quella, il cerchio dove deve passare il frisbee. E io ne metto uno a 35 metri, un altro a 25 metri, un altro a 15 metri. Tu puoi lanciare il frisbee facendolo passare anche 3, ma è difficile. L'ho sempre fatto, ma qualche anno fa vedo una televisione, ma lei riesce a fare il lancio tutte e 3. È difficile. Provo il primo lancio, passato 2, e il terzo ha toccato, però è passato anche quello. Applausi da tutti. È venuto sulla televisione questo lancio. È una cosa bella, meravigliosa. Quindi lei è ancora un campione, Valentino, ma tira ancora, lancia ancora? Sì, la lancia ancora. C'ho la mia età, insomma, la mia passione, io alle 6 del mattino sono già a Playfield, al parco. Lei, Valentino, ha dedicato tutta la vita al frisbee, ha fondato l'Associazione Italiana Frisbee, con le sue forze ha creato questa attività anche in modo, insomma, volontaristico per i ragazzi della zona, eccetera. Ha un rimpianto, ha un sogno ancora? Che cosa ci può dire di questa sua vita dedicata a questa cosa? Il mio sogno è di lasciare ai ragazzi giovani questa possibilità che prima non avevano. Il primo playfield italiano che abbiamo creato lì alla Barona, Parco Termo, cioè una struttura dei sport ecologici, come c'è il tennis, c'è il calcio, gli stadi, cerco di lasciare queste cose meravigliose ai giovani. Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben? La numero uno. La numero uno. Il conduttore di quiz, che per inciso sa cosa c'è dietro tutte le porte, decide di aprirne un'altra. Diciamo che sceglie la numero tre, dietro la quale è seduta una capra. Il conduttore ti si avvicina e dice, Ben, ti vuoi tenere la numero uno o passi alla numero due? La mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile. Quando all'inizio mi chiede di scegliere una porta, io ho il 33,3% di scegliere la porta giusta. Ma dopo che lui ha aperto una delle porte e mi offre di cambiare scelta, allora ho il 66,7% se cambio scelta. E quindi scelgo la numero due e ringrazio per quel 33,3%. Molte persone non avrebbero cambiato, non so, per paranoia, paura, emotività. Ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni e con la semplice matematica mette il culo su una macchina nuova di zecca! Matematica come alleata per le scelte di vita. Quante volte ci affidiamo alle emozioni anziché ai numeri? C'è chi ha pensato di usarla, la matematica, come arma contro il gioco d'azzardo, come strumento di prevenzione. È l'intuizione di Paolo Canova, Diego Rizzuto e Sara Zaccone che con Taxi 1729, società di formazione e comunicazione scientifica, promuovono incontri nelle scuole, nelle aziende, negli enti locali per prevenire la dipendenza dal gioco d'azzardo con la matematica. Fate il nostro gioco, questo il nome del progetto, diventa così una sorta di antidoto logico contro il gioco d'azzardo. Paolo Canova. Ma in realtà noi a priori non siamo né a favore né contro, semplicemente spieghiamo come funziona, spieghiamo quali sono i meccanismi che stanno alla base del gioco d'azzardo e quali sono quei meccanismi matematici e psicologici che ci fanno venire voglia innanzitutto di cominciare a giocare e poi ci fanno venire voglia di continuare a giocare anche quando in realtà ci rendiamo conto benissimo che non conviene perché stiamo perdendo. Non è che siamo stupidi e continuiamo a giocare anche quando perdiamo dei soldi, è che il gioco è tutto nato molto bene e quindi ci fa venire voglia di continuare a giocare anche laddove non sarebbe razionale farlo. Non è fortuna, è matematica, è uno dei vostri claim. Tra le altre cose dimostrate come la perdita media dei giochi da tabaccaio, chiamiamoli così, i vari Gratta e Vinci, Win for Life, eccetera, sia superiore a quella della roulette. Sì, assolutamente. La roulette è uno dei giochi più vecchi, diciamo così, e quindi aveva un margine di guadagno, si chiama, più basso per il gestore, margine di guadagno basso in percentuale, che non vuol dire che non ci si rovini, anzi, insomma, la rovina, la voletta arriva molto in fretta. Con altre tipologie di giochi arriva forse ancora prima, ecco. Non è fortuna, è matematica, insomma, è un slogan molto semplice per dire che se uno gioca tanto a qualsiasi gioco d'azzardo, il destino è un destino matematico ed è quello di perdere. Ma la matematica ci dice anche quanto andremo a perdere giocando a lungo a un determinato gioco. Se uno gioca una volta o due contro un Gratta e Vinci, ad esempio, e basta, allora magari può essere fortunato e può vincere. La cosa più probabile è che non capiti questo, però insomma può capitare. Ma se uno continua a giocare di biglietti ne compra tanti, allora alla fine il suo destino sarà quello di non vincere, anzi di perdere soldi, e si può anche prevedere quanti soldi andrà a perdere. Nel caso del Gratta e Vinci il miliardario, ne dico uno solo perché è il più, insomma, uno dei più venduti in assoluto in Italia, ad esempio andrà a perdere il 30% di tutti i soldi giocati. E tra l'altro il vostro gioco delle probabilità è molto divertente, insomma, tra gli esempi che fate è più probabile che un asteroide colpisca la Terra, oppure che la persona che si reca in auto dal tabaccaio per andare a giocare con il Gratta e Vinci muoia in un incidente stradale nel percorso. Sì, è vero, è quella che si chiama number numbness, insensibilità ai numeri. Non siamo molto bravi a gestire, diciamo, i numeri molto grandi e molto piccoli, e quindi li appiattiamo come se fossero la stessa cosa. Quando uno ci dice che la probabilità di vincita del Superenalotto è 1 su 622.614.630, nella nostra testa noi pensiamo 1 su un numero grande. Se ci avessero detto 1 su 100.000, 1 su 100 miliardi, non avrebbe fatto grande differenza. E invece c'è questa differenza, e appunto è quella che fa sì che appunto spesso prendiamo decisioni non razionali, non, diciamo, non in linea con quello che dovrebbero essere le vere probabilità, proprio perché non riusciamo a capire questi numeri. E quindi gli esempi che hai fatto te, certamente appunto è più probabile che la Terra venga distrutta dall'asteroide 99942 Apophis il 12 aprile 2068, qua la probabilità è 1 su 150.000 calcolato dalla NASA, piuttosto che vincere al Superenalotto, anzi, insomma, qualche migliaia di volte più probabile. Nessuno di noi ha paura della distruzione della Terra, però tutti crede. Noi speriamo di vincere. Esatto. Voi usate la matematica per in qualche modo far acquisire responsabilità, senso critico, giudizio critico anche in altri settori, ad esempio quello del risparmio. Sì, gli stessi meccanismi, ecco, che abbiamo incontrato sul gioco d'azzardo, a forza di approfondire questi temi, abbiamo scoperto appunto si applicano anche in altri ambiti, appunto quello dell'economia è l'ambito più vicino, diciamo. E anche in quel caso abbiamo cercato di capire quanto ci fosse di matematica dietro e quanto ci fosse di psicologia, di tecniche di vendita, ma soprattutto dei nostri bias cognitivi, cioè dei nostri errori che fa la nostra mente ogni volta che vogliamo valutare, diciamo, qualcosa. Che cos'è la matematica della scelta? La matematica della scelta è proprio quel, diciamo, il payoff che abbiamo inventato proprio per spiegare questi meccanismi, per spiegare quali siano le difficoltà che proviamo ogni volta che prendiamo una scelta e quali sono le forze istintive che ci spingono a prendere decisioni. E sono forze istintive che nella stragrande maggioranza dei casi funzionano molto bene, ma quando dobbiamo prendere decisioni, soprattutto in ambito economico, in ambito in cui la scelta è molto difficile, allora funzionano molto meno bene. Essere Avere finisce qui, grazie in regia a Paolo Corleoni, a domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.